Thank you. Grazie. Ciao ragazzi. Una bellissima giornata in chiesa. Amen. Amen. Gesù è risorto. Il giovane d'Italia devono essere salvati. Totalmente. Tutti quanti. Let's turn to English. Ok, passiamo all'inglese adesso. It's a great joy to be with you here this morning. È davvero fantastico essere qui con voi questa mattina. And I've heard so much about this church for a long time. E ho sentito tante cose riguardanti questa chiesa da ormai parecchio tempo. And I've been able to meet with Pastor Mirko sometimes as well. E ho avuto la possibilità di incontrare anche il pastore Mirko diverse volte. And I've been meeting several people here that we've met through the years with Jesus Revolution. E nel corso degli anni ho incontrato diverse persone qui che avevo già incontrato per via dei Jesus Revolution. It's such a great joy to be able to stand together in Europe. Ed è così una grande gioia poter essere insieme come un corpo unito qui in Europa. This continent that we're all a part of. Questo continente del quale tutti quanti facciamo parte. And next year we will have the joy of doing something special together. E l'anno prossimo avremo la gioia di fare un progetto insieme. But I'll leave that to Pastor Mirko to share. Ma lascio al pastore Mirko l'opportunità di condividere di più su questo. If I could have some monitors up here, it would be great. Yeah. They, yeah, whatever they do, as long as, yeah, I'd be happy to have some. Thanks. Okay, now you know, I really want to go straight to the Word of God this morning. Sapete, voglio andare direttamente, voglio incominciare direttamente a parlare della parola di Dio questa mattina. And I felt the Lord give me a special word for today. E sento che Dio mi ha dato una parola specifica per oggi. It's like a message that I really have never preached before. È un messaggio che non ho mai predicato prima d'ora. And so it's like a fresh word for today. E quindi è una parola fresca per oggi. And I need some monitors somehow. They need to help me. E abbiamo bisogno di sentire di più la nostra voce. Can we get that organized if they take this one closer or turn that one or just I need someone. Yeah. Okay. Forse un po' più forte. Let's be practical. Okay. Yeah. No, this is good. I'm all good. Are we good with it? Okay, thank you. Are you okay? Sì, sì. Okay. Now, Father God, we thank you. Quindi Gesù, ti ringraziamo for your precious word this morning, per la tua parola preziosa questa mattina, that we can be together in your name, che noi possiamo essere qui riuniti nel tuo nome. We thank you that you have a special word for us today. Ti ringraziamo perché hai una parola speciale per oggi. And we pray for your grace to receive it as disciples. E ti preghiamo per la tua grazia che ci possa permettere di riceverla come tuoi discepoli. In Jesus' name, amen. Nel nome di Gesù, amen. Now the heading of the message. Ora il titolo del messaggio is God's supernatural time. È il tempo supernaturale di Dio. Il tempo supernaturale di Dio. Perfetto. Perfetto. Amen. And you can turn with me to Amos chapter 9. E quindi possiamo andare insieme al libro di Amos al capitolo 9. And I'll read from verse 13. E io leggerò dal verso 13. It's kind of a peculiar verse. Ed è un versetto abbastanza particolare. It sounds a bit strange. Cioè, lo leggi ed è un po' strano. But the Bible says, "Behold, the days are coming," says the Lord. Ma la Bibbia dice, "Eccono, ecco, vengono i giorni," dice il Signore. When the plowman shall overtake the reaper. In cui l'aratore incontrerà si incontrerà con il mietitore. And the treader of grapes, him who sows seed. E chi pigia l'uva con chi getta il seme. The mountain shall drip with sweet wine, and all the hills shall flow with it. Quando i monti stilleranno mosto e tutti i colli si scioglieranno. How could that ever happen? Com'è possibile che succeda? That the plowman will overcome the reaper. Che l'aratore si incontrerà con il mietitore. And the treader of grapes, him who sows the seed. E chi pigia l'uva con chi getta il seme. Well, I think it talks about something supernatural when it comes to time. Bene, io credo che si sta parlando di un qualcosa di supernaturale in termini proprio di tempo, everything di tempistica. Everything with God is supernatural. Tutto quello che Dio è supernaturale. Even time. Anche il tempo. Sometimes, you know, we want supernatural time in a strange way. Sapete, qualche volta noi vogliamo questo tempo supernaturale in un modo piuttosto strano. They are called shortcuts. Si chiamano viuzzole, scorciatoie. Have you ever wanted a shortcut in your life? Avete mai voluto una scorciatoia nella vostra vita? Did you ever want things to move faster in your life? Avete mai desiderato che le cose si muovessero? Sometimes we would be happy if we could just get prayer and get character. Molte volte saremmo così felici di pregare e di avere la soluzione del nostro carattere. Lord, I need patience now. Signore, ho bisogno di pazienza ora. That's not God's supernatural time. Ecco, questo non è il tempo supernaturale di Dio. But the Bible has many things to say about time. Ma la Bibbia ha così tante cose da insegnarci proprio nei termini di tempo. In Chronicles chapter 12 and verse 32. In Cronache al capitolo 12 al versetto 2. It talks about the sons of Issachar. Si parla dei figli di Isacca. Who had understanding of the times. Che avevano una comprensione dei tempi. And because they had understanding of the times. E siccome comprendevano questi tempi. They knew what Israel had to do. Loro sapevano cosa Israele doveva fare. In Matthew chapter 16 and verse 3. In Matteo al capitolo 16 al versetto 3. Jesus is rebuking the Pharisees. Gesù sta sgridando i farisei. Because he says, well, when the sky is red, you see the weather is going to be like this and that. Perché stavano dicendo che quando il cielo sarà rosso, allora capirete che cosa sta per succedere. But how come you cannot discern the signs of the times? Ma perché non è possibile discernere, capire i segni del tempo? You know, God wants us to have an understanding of the time. Sapete, Dio vuole che noi siamo in grado di comprendere le tempistiche, i tempi. The time in your life. Il tempo nella tua vita. And also the time in a church. E anche il tempo nella vita della chiesa. The time in the kingdom of God. Il tempo nel regno di Dio. And I really believe. E io credo. There is an element of God's supernatural time. Che c'è un elemento del tempo supernaturale di Dio. Oh, I love Italian. Oh, mi piace l'italiano. Il tempo supernaturale di Dio. Can you hear how much music there is in that sentence? Potete there? Sentire la musicalità di questa frase? Il tempo supernaturale di Dio. Can you hear that? Yeah, that was confirmation just there. Okay, grazie per la conferma. Il tempo supernaturale di Dio. We should make a song about this. Dobbiamo scrivere una canzone riguardo questo. Where's the drummer? He just went away. Dov'è il batterista? Batterista, dove batterista, sei? Batterista, presto, vieni, presto. Vieni. In tempo, presto, signor, yes. Come on. Veloce. Oh, you can do faster than that. Corri, Christian. Yes, corri, Christian, sì, certo. Okay. Can you do like a good beat for us just for a second? Okay, ci puoi dare un po' di ritmo, like, giusto per qualche secondo? Il tempo supernaturale di Dio. Il tempo supernaturale di Dio. Il tempo supernaturale di Dio. Il tempo supernaturale. Can you sing with me? Il tempo supernaturale di Dio. Il tempo supernaturale di Dio. Thank you. Grazie mille. Good. That was very good. Wow. Maybe you should just sit there. Magari Christian rimani qui. Yeah, you can just sit there and shine, okay? Siediti lì e splendi. And from time to time people say il tempo super. Okay, there you are. E ogni tanto partiamo da capo. Now, in Psalms chapter 1. Ora, nel Salmo numero 1. We also read about seasons. An- anche lì leggiamo di stagioni. And sometimes it can be hard to understand the seasons in our own lives. E qualche volta può essere davvero complicato il comprendere le stagioni della nostra vita. The Bible talks about the one who has his delight in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. La parola dice, il Salmo dice che beato sia colui che contempla la parola di Dio giorno e notte. He shall be like a tree planted by the rivers of water that brings forth its fruit in its season. Lui sarà come un albero piantato vicino all'acqua che porterà frutto nella sua stagione. Now, have you ever been frustrated in your life? Ora, siete stati mai frustrati nella vostra vita? Because it seemed like nothing was happening. Perché sembra che nulla stia succedendo. It seems like you were standing still. Sembra che sia tutto piatto, che tu sia immobile. And you felt like this tree. E ti senti come questo albero? No fruit in the branches. Senza alcun frutto sui rami. And then you looked at all the other trees. E quindi poi ti capita di guardare tutti gli altri alberi. Full of blossoming fruit. Pieni di frutto maturo. Seems like everyone is bearing fruit. Sembra che tutti quanti stiano portando frutto. Except from me. Tranne. Now, do you ever know anyone who's ever felt like that? Conoscete qualcuno che si è sentito così? Sì. And instead of rejoicing with everyone who bears fruit. E quindi invece di gioire con tutti quelli che stanno portando frutto? You think, what about me? Pensi, e quando tocca a me? Quando tocca a me? Quando tocca a me? Quando tocca a me? Quando tocca a me? Quando tocca a me? Quando tocca a me. Quando tocca a me. Quando tocca a me. Quando tocca a me. Il tempo supernaturale di Dio. Il tempo supernaturale. No. Passione, italiano, passione. Allora, un po' di crediamoci tutti insieme. Uno, due, tre. Il tempo supernaturale di Dio. Il tempo supernaturale di Dio. That's good. So we can sometimes don't understand this thing with seasons. E quindi qualche volta ci troviamo a non comprendere tutto quello che ha a che fare con queste stagioni. And you know what? This happens with the best of the best. E sapete, questo succede anche ai più grandi, anche ai migliori. Even Moses. Anche a Mosè. He hadn't much understanding of the times and seasons in his own life. Lui non capiva molto bene i tempi e le stagioni della sua vita. And Acts chapter 7 actually reveals that. E Atti capitolo 7 in realtà proprio descrive questo. Because in verse 23, perché nel verso 23, it talks about Moses. Si parla di Mosè. Now when he was about 40 years old, it came into his heart to visit his brethren, the children of Israel. Ma quando raggiunse l'età di 40 anni, gli venne in animo di andare a visitare i suoi fratelli, i figli di Israele. And seeing one of them suffer wrong, he defended and avenged him who was oppressed and struck down the Egyptian. Vedendo che uno di loro era maltrattato, ne prese le difese e vendicò l'oppresso, colpendo a morte l'egiziano. And listen to this. Ora ascoltate For bene. For he supposed that his brethren would have understood that God would deliver them by his hand, but they did not understand. Ora egli pensava che i suoi fratelli avrebbero capito che Dio voleva salvarli per mano di lui, ma essi non compresero tutto ciò. Now we all know the story of Moses. Ora la conosciamo la storia di Mosè. Prince of Egypt. Il principe d'Egitto. You know, rescued from the river. E che è stato salvato da un fiume. Brought up in the house of Pharaoh. Cresciuto nella casa del faraone. And when he's 40 years old. E quando ha 40 anni. He decides to go to look at those Hebrews down there. Lui decide ad un certo punto di andare un po' a visitare questi ebrei. Because somewhere deep down in his heart. Perché nel profondo del suo cuore. He somehow felt one day I will rescue them. Lui sapeva, ok, un giorno io li salverò. There is a purpose why God rescued me. C'è un motivo, un obiettivo per il quale Gesù mi ha salvato, Dio mi ha salvato. And he sees how this Egyptian is treating the Hebrews. E quindi vede come gli egiziani trattavano male, maltrattavano questi ebrei. But he had a little problem. Ma c'era un problema, lui ha avuto un problema con questo. A bit too much passion. era troppo pieno di passione. He gets angry. Molto istintivo, si arrabbia. He kills the Egyptian. E quindi uccide l'egiziano. And God thinks, e Dio dice, pensa. We do have a problem here. Ok, abbiamo un problema qui. If this is the first thing he does, se questa è la prima cosa che si ritrova a fare, and this guy is going to lead some million people out of Egypt, e Dio vuole comunque portare fuori milioni di ebrei, and this is his temperament, e questo è il suo temperamento, it's going to be a manslaughter. Allora sarà veramente una scommessa. Scommessa, sì, molto pericoloso. So God says, let us deal with the time a bit differently here. Allora Dio dice davanti alla carneficina potenziale, dice ok, cerchiamo di cambiare strategia qui. Let's send them into the wilderness. Li mandiamo nel deserto. Let's say for 40 years. Vediamo, 40 anni. And he can tend the sheep. E lui può prendersi cura delle pecore. If he kills them, okay, no problem. Perché se uccide le pecore, vabbè, non è un grande problema. And then after 40 years. E poi dopo 40 anni. Moses was taught humility. In questi 40 anni a Mosè è stata insegnata l'umiltà. And the interesting thing with God. Sorry? The interesting thing with God. La cosa interessante con Dio. Is when it comes to the point in Moses' life when he thinks it's over. È che quando Mosè è arrivato al momento dove lui può pensare ok, ho finito. It's never gonna happen. Non succederà mai. He hears the voice of God. Lui sente la voce di Dio. Moses, Mosè, I'm calling you. Ti sto chiamando. Deliver my people. Porta il mio popolo verso la libertà. God's supernatural time. Questo è il tempo supernaturale di Dio. May not be exactly the way that we think it is. Probabilmente non è lo stesso tempo che noi pensiamo. Have you ever been in the wilderness? Sei mai stato nel deserto? No amens. Have you ever been in the wilderness and you felt it's gonna last forever? Ti sei mai trovato nel deserto e hai pensato questo sarà per sempre così, non succederà mai nulla? Maybe you feel like you're in the wilderness right now. Forse tu ti senti proprio in questa stagione della tua vita nel deserto. Let me read for you in Matthew chapter 4. Leggiamo insieme in Matteo capitolo 4. Il tempo supernaturale di Dio, il tempo supernaturale di Dio, il tempo supernaturale. Sing with me. Yes. Il tempo supernaturale di Dio, il tempo supernaturale di Dio. Right. Now in chapter 4 and verse 1. Okay, in Matteo capitolo 4 al versetto 1. It's such a strange verse when it comes to the time. Anche questo è un versetto così strano quando si parla proprio di tempistiche, di tempo. Then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. E c'è scritto: allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. Talking about understanding the times in your life. Cioè, parliamo di cercare di capire i tempi della nostra vita. The Spirit. Lo Spirito. Leads Jesus. Guida Gesù. Into the wilderness. Nel deserto. To be tempted by the devil. Per essere tentato dal diavolo. Understand that. Cerca di capire quello. You know, sometimes. Sapete, qualche volta. We think I'm not on the right track. Pensiamo che io non sto nel percorso giusto. Non sono quello che in realtà dovrei essere. It's like a wilderness. È come nel deserto. It's dry all around me. Ed è tutto arido, tutto attorno a me. Nothing is happening. Niente sta succedendo, niente si muove. Ever felt that way? Avete mai provato questo? And that's when we start to take hasty decisions. È quello il momento in cui incominciamo a prendere delle decisioni discutibili. I need to move. Mi devo muovere. I need to go. Devo andare da qualche parte. New friends. Nuovi amici. New church. Nuova chiesa. New job. Nuovo lavoro. New whatever new. Tutto nuovo. Yeah, tutto nuovo. Tutto nuovo. Sì, totalmente. Totalmente nuovo. Because we become impatient in the wilderness. Perché nel deserto incominciamo ad essere impazienti. But do you know what? Ma sapete cosa succede? You may be exactly where God wants you to be. Probabilmente tu sei esattamente dove Gesù ti vuole. Amen. Amen. And God is calling you to go deeper with Him. E Dio ti sta chiamando a crescere in profondità con Lui. Amen. Amen. So we need to have an understanding of the times. Quindi dobbiamo capire questi Amen. Tempi. And to understand that the supernatural times of God. E dobbiamo capire i tempi supernaturali di Dio. Can be so different. E dobbiamo capire che questi possono essere molto diversi. Now, the question then is. Ora. La domanda quindi è: how can we release and how can we see the supernatural time of God in our lives? Come possiamo comprendere, come possiamo vedere questo tempo supernaturale di Dio nella nostra vita? Number one. Numero uno. Pray. Prega. Prega. Mm. I have a simple theology here. Ok, ho una dottrina teologica abbastanza semplice qui. Yes. Pray a little. Prega un po'. A little happens. E un poco succede. Poco succede. Pray much. Prega tanto. Much happens. E tanto succederà. Pray very much. E quindi preghiamo tanto. Very much happens. Tanto affinché tanto possa succedere. This is simple Viking theology here. Questo è una teologia nordica, vichinga. Vichinga, sì, certo. Yes. We are even starting a place called day and night. Noi stiamo incominciando questa cosa chiamata giorno e notte. Where we are praying day and night. In questo luogo noi preghiamo giorno e notte. For a move of God in Europe and our nations. Affinché possiamo vedere Dio muoversi in Europa e nella nostra nazione. Because we want the supernatural time of God. Perché noi vogliamo il tempo supernaturale di Dio. We should take one up, notch up, mana, the supernatural. Il tempo supernaturale di Dio. Il tempo supernaturale. Come on, church! Il tempo supernaturale di Dio. Il tempo supernaturale di Dio. Good. In Luke chapter 24. Okay, in Luca capitolo 23. Jesus tells his disciples. Gesù dice ai suoi discepoli. That the gospel of the kingdom. Che il regno dei cieli, repentance from sins, ravvedetevi dai peccati, shall, and remission of sins should be preached in his name to all nations beginning in Jerusalem. Il ravvedimento dei peccati sarà predicato in tutte le nazioni fino a Gerusalemme. And then he says, but you shall tarry in the city until you have received with the power from on high. That was a hard one. Let's see here. Tarry in the city of Jerusalem until you are endued with power from on high. Io vi mando questa promessa dal Padre su di voi e voi dovete rimanere a Gerusalemme fino a quando lo Spirito, la potenza sarà su di voi. Exactly. And what do they do then? E quindi che cosa fanno? They pray. Loro pregano. In the upper room. Nella stanza al piano di sopra. In Acts chapter 1 and verse 18. In Atti al capitolo 1 al versetto 18. Now God said, Jesus said. Ora Gesù ha detto. You're gonna preach. Voi predicherete. I'm sending you. Io vi sto mandando. It's a mission. È una missione. They responded. Loro risposero. By praying. Pregando, seeking God, cercando Dio, seeking His face, cercando il suo volto. And guess what happens? E indovinate che cosa è successo? The supernatural time of God manifests. Si è manifestato il tempo supernaturale di Dio. Because they are filled with the Holy Spirit. Perché loro sono stati riempiti dallo Spirito Santo. They start to speak in new tongues. E hanno incominciato a parlare in nuove lingue. The wind and fire of God falls. E il vento e il fuoco dello Spirito Santo è sceso. And the supernatural time of God comes into the church. Nella chiesa incomincia a manifestarsi il tempo supernaturale di Dio. Someone once said this. Qualcuno ha detto questo. When man works. Quando l'uomo lavora, l'uomo lavora. When man prays, God works. Quando l'uomo prega, Dio lavora. Amen. Supernatural time of God. Amen. Questo è il tempo supernaturale di Dio. The next thing that we have to do. Ora l'altra cosa che dobbiamo fare. In order to live in God's supernatural time. Per vivere nel tempo supernaturale di Dio. Is obedience. È ubbidire. This fantastic Christian word. Questa parola meravigliosa cristiana. Obedience. Ubbidienza. Obbedienza. Obbedienza. Ubbidienza. Obbedienza. Obbedienza. This is the first time ever a song about obedience in Italian churches. Questa è la prima volta che stiamo scrivendo una canzone sull'ubbidienza nella chiesa italiana. Obbedienza tutti. Obbedienza tutti. I wish you said obedience to God. Ubbidienza, ubbidire a Dio. Obbedire a Dio. Obbedire a Dio. Obbedire a Dio. Obbedire a Dio. Ah, obbedire a Dio. Obbedire a Dio. Obbedire a Dio. Ah, obbedire a Dio. Obbedire a Dio. Obbedire a Dio. Obbedire a Dio. Good translator, hey. Come on. You're doing great. Now let me give a very special example about the obedience. Okay, lasciate che io vi dia qualche esempio specifico e speciale riguardo l'ubbidienza. Philip the Evangelist. Philip the Evangelist. Filippo l'evangelista. Preaching in Samaria. Sta predicando in Samaria. Revival. Il risveglio. Signs and wonders. Segni e prodigi. Healing, salvations. Liberazioni e guarigioni. Breakthrough. Proprio vittorie. Great joy in the city. Una grande gioia nella città. Evangelists, they like that. E gli evangelisti amano tutto ciò. And then the Spirit of God says. E poi lo Spirito di Dio dice. Go into the wilderness. Vai nel deserto. On the road that leads down south. Sulla strada che ti dirige a sud. And they will you will find a man there. E lì troverai un uomo. Leave the revival. God? Cioè, devo lasciare il risveglio. Cioè, Dio? Sei serio? Have you just noticed what happened in Samaria? Ma hai notato quello che è successo in Samaria? We had some massive meetings there. Cioè, abbiamo avuto un incontro meraviglioso appena lì. Go to that wilderness road. Imbocca quella strada nel deserto. He obeys. E lui che fa? Ubbidisce. The Ethiopian eunuch. E lì abbiamo l'eunuco d'Etiopia. The finance minister of the queen of Ethiopia. Un servitore di alto rango della regina. Is reading Isaiah. E lì sta leggendo Isaia. Philip explains the gospel. E che cosa fa? Filippo gli spiega il Vangelo. He receives and is baptized. E lui riceve il Vangelo e è battezzato. And the whole of Ethiopia is reached. E tutta l'Etiopia è raggiunta dal Vangelo. In God's supernatural time. Nel tempo supernaturale di Dio. And God even says. E Dio dice. I'll show you some really good stuff in supernatural time. Io ti mostrerò qualcosa di meraviglioso nel mio tempo supernaturale. It's called Philip Airlines. ed è chiamato la compagnia aerea di Filippo. And the Bible says Philip was found in Ashdod. E la Bibbia dice che Filippo fu trasportato in un altro luogo. And sometimes we are wondering, where are you, God? E tante volte noi ci domandiamo e chiediamo, Dio, ma dove sei? And we need to go back to what is the last thing God told you. E noi dobbiamo lì in quel momento ritornare all'ultima cosa che Dio ci ha detto. Because why should he tell us something new? Perché dovrebbe dirci qualcosa di nuovo? If we haven't obeyed the last thing he told us. Se non abbiamo obbedito all'ultima cosa che lui ci ha detto. Amen. Amen. Obedience releases God's supernatural time. Perché l'ubbidienza fa produce il tempo supernaturale di Dio. The next thing that releases God's supernatural time, l'altra cosa che scioglie il tempo supernaturale di Dio, is faithfulness. È fedeltà. Because Luke 16:10 says, perché Luca 16 al versetto 10 dice: he who is faithful in the least, chi è fedele nelle cose minime, will be faithful in the greater things, sarà altrettanto fedele nelle cose più grandi. Amen. Amen. He who is faithful in what is least is faithful also in much. Colui che è fedele nelle cose minime sarà anche fedele nelle cose più grandi. God always look for faithfulness. Dio sempre cerca in noi fedeltà. You look like you want to play some more. Tu sembra che proprio voglia suonare un po' di più. Il tempo supernaturale di Dio. Il tempo supernaturale di Dio. Il tempo supernaturale di Dio. Il tempo supernaturale di Dio. Now the wonderful thing is, ok, la cosa meravigliosa è, when you come home to your grandmother, quando tu vai a casa e parli con tua nonna, and she says, how was church today? E lei ti chiede: beh, allora, com'è andata la chiesa? The one thing you will remember, la cosa che ti ricorderai, you will look at your grandmother and say, che guarderai tua nonna e dirai: il tempo supernaturale di Dio. Okay, I get it. Okay, andiamo avanti. Faithfulness releases God's supernatural time. Ma quindi la fedeltà produce proprio il tempo supernaturale di Dio. The German evangelist Reinhard Bonnke, he said, Reinhard Bonnke, l'evangelista tedesco, una volta disse: I've just been faithful doing what I have been doing. Io sono stato fedele nel fare quello che ho fatto. But from time to time, God just lifted the whole ministry up to a new level. Ma poi succedeva, arrivava il momento che Dio portava il ministero ad un livello superiore. Wow, I see that you are faithful with 1,000 people. Wow, ho visto che sei stato fedele con un migliaio di persone. I can give you 100,000 people. Oh, allora te ne do 100,000 persone. I see you are faithful with 100,000 people. Sei fedele con 100,000 persone. Bonnke, I will entrust you with 1,000,000 people. Allora io ti affiderò 1,000,000 di persone. But we usually want the big things first. Ma spesso noi vogliamo vedere i grandi risultati velocemente, subito. Sì? Maybe not here, but in Northern Europe. Forse non in questa chiesa, nelle altre chiese è così. Nel Nord Europa è così. Then there's another aspect. E poi c'è un altro aspetto. When it comes to God's supernatural time, quando si parla proprio del tempo supernaturale di Dio, it's what I will call prophetic time. È quello che io chiamo tempo profetico. You know, Galatians 4:4 says, sapete, in Galati al capitolo 4 versetto 4, in the fullness, when the fullness of time had come, quando giunse la pienezza del tempo, God sent forth his son. Dio mandò suo figlio. Taste that expression there, the fullness of time. Pensate a questa dicitura, la pienezza del tempo. Think about Nehemiah. Pensa a Nehemiah. Building the wall. Stava costruendo le mura, il muro. After the destruction of Jerusalem. Dopo la distruzione di Gerusalemme. Enemies all around. E i nemici erano tutti attorno. Everyone wants to discourage them. Tutti quanti erano volevano scoraggiarli. And in 52 days. E in 52 giorni. They build the wall. Loro hanno costruito le mura. We should make plans. Noi dobbiamo pianificare. We should have systems. Cioè dobbiamo essere ordinati nei nostri piani. È buono. We need to be organized. Dobbiamo essere organizzati. We need to plan ahead of time. E allora pianificare con largo anticipo. But praise God. Ma grazie a Dio. We are not limited to our plans. Noi non siamo limitati. Because there is an element of supernatural time. Dai nostri piani, perché c'è questo elemento di un tempo supernaturale. Like a fullness of time. La pienezza del tempo. And you build a wall in 52 days. E quindi ti ritrovi a ricostruire le mura in 52 giorni. Sometimes that could be time for the church. E spesso si parla del tempo proprio all'interno della vita di chiesa. The logic plan is to do this. Il piano logico è di fare questo. And then after 1 year this. E poi dopo un anno questo. And after 2 years this. E dopo 2 anni questo. This is our growth plan. E questo è la nostra, il nostro piano di crescita. But then God comes. Ma poi Dio viene. And says no. E dice no. You spent 30 years preparing for this. Tu hai speso 30 anni nel prepararti per questo. You don't need 10 years to go there. Tu non hai bisogno di altri 10 anni per arrivare lì. It's prepared. È pronto. It's the fullness of time. È la pienezza del tempo. It is ready. È ora il tempo. Move. Muoviti. And then we must not place ourselves over God. E quello è il momento in cui noi non dobbiamo porci al di sopra di Dio. We must dare to believe. Ma dobbiamo azzardarci a credere. And this is also happening because of the last thing. E questo, tutto questo succede anche per l'ultimo elemento. Prepared hearts. Cuori preparati. You know, prayer. Allora, preghiera. Obedience. Ubbidienza. Faithfulness. Fedeltà. God's prophetic timing. Il tempo profetico di Dio. And a prepared people. Ma anche persone, un popolo preparato. I'll read a special verse for you. Vi voglio leggere un verso molto speciale. It's found in Ecclesiastes. Si trova in Ecclesiaste. Chapter 10 and verse 10. Al capitolo 10, al versetto 10. Il tempo supernaturale di Dio. Il tempo supernaturale di Dio. Il tempo supernaturale di Dio. Il tempo supernaturale di Dio. Oh. Yeah. Now, it says, if the axe is dull and one does not sharpen the edge, then he must use more strength. But wisdom brings success. It's a special verse. Se il ferro perde il taglio e uno non lo arrota, bisogna che raddoppi la forza, ma la saggezza ha il vantaggio di riuscire sempre. The axe needs to be sharpened. Il ferro deve essere affilato. And if it's dull, you need to use much more power. E per affilarlo bisogna che si usi tanta forza. And this is the key with preparation. E questa è proprio la chiave della preparazione. Sharpening the axe is never wasted time. Affilare la lama non è una perdita di tempo. The Bible says in 1 Samuel 16. In 1 Samuele 16 la Bibbia dice: Bring me a skillful musician to the court. Portatemi dei musicisti, portatemi a corte dei musicisti capaci. They got David. E hanno portato Davide. Why? Perché? Because he was prepared. Perché Davide era preparato. Hours and hours and hours and hours and hours in the wilderness. Ore ed ore ed ore ed ore nel deserto. Sitting there in the fields outside Bethlehem. Lì seduto nei campi fuori Betlemme. The Lord is my shepherd. L'Eterno è il mio pastore. I shall not want. E nulla, nulla mi mancherà. Oh, the Lord is my shepherd. Lui sempre è il mio pastore. I shall not want. Niente mi mancherà. He was prepared when the moment came. Lui era preparato per il momento che poi è arrivato. And finalmente. He was lifted into God's supernatural time. E il tempo è arrivato. Nel secondo, il tempo supernaturale di Dio, e lui fu innalzato in quel tempo. Now, there's one thing I had to add in the end here. Ora voglio solo aggiungere una cosa a conclusione. There are many things we don't need to wait for. Ci sono tante cose per le quali noi non dobbiamo aspettare. Everything God told us to do, we should do. Tutte le cose che Dio ci dice di fare, noi le dobbiamo fare. Build his church. Edificare la sua chiesa. Preach the gospel. Predicare il Vangelo. Make disciples. Fare discepoli. Pray. Pregare. You don't need a word from God to do that. Non hai bisogno di una parola da parte di Dio per fare questo. We simply do what God told us. Semplicemente fai quello che Dio ha detto. But, ma before this meeting today, prima di questo incontro oggi, and I do not know what that signifies for this church, e io non so quello che significa per questa chiesa, I got this word, ma ho sentito questa parola, God's supernatural time, il tempo supernaturale di Dio. And as I said, I never preached this message anywhere before. First time today. E come ho detto, io non ho mai predicato questo messaggio prima d'ora. Oggi è la prima volta. So as we're standing up here, quindi mentre ci alziamo, let's ask the Lord that He will also start to reveal. Incominciamo a chiedere al Signore che anche Lui possa incominciare a rivelarci. In our lives and in the church. Nella nostra vita e nella vita della Chiesa. His plans and purposes. I suoi piani e il suo scopo. In God's supernatural time. Nel tempo supernaturale di Dio. But first of all. Ma prima di tutto. Maybe maybe you're here this morning. Forse sei qui questa mattina. And you are not right with God. E non sei a posto con Dio. You don't know if you're on your way to heaven. Tu non sai se andrai in paradiso. Maybe you were brought here by a friend. Forse un amico ti ha portato qui. Perhaps you just showed up here alone. Forse sei venuto da solo. God loves you. Hey, Dio ti ama. He has a plan and a purpose for your life. Dio ha un piano per la tua vita. He's calling on you today. E lui ti sta chiamando oggi. And we all know. E tutti quanti sappiamo, Jesus is the way to God. Che Gesù è la via che ci ricongiunge a Dio. The one who died for our sins. Lui è morto per i nostri peccati. That we should not perish but have eternal life. E noi non dobbiamo morire ma avere vita eterna in Lui. You've heard me share about God's supernatural time. Abbiamo parlato del tempo supernaturale di Dio. But you need to be right with God. Ma hai bisogno di metterti a posto con Dio. And if that's you, e se questo sei tu, while we just bow our heads in prayer, mentre chiniamo il nostro capo, just want to ask a simple question. Io voglio chiederti una semplice domanda. If you're here today and you say yes, se sei qui e tu dici sì, pray with me. Prega con me. I need peace with God today. Io voglio fare pace con Dio oggi. If you've been never a Christian before, se tu non hai mai accettato Gesù nel tuo cuore, or if you need to come back to your heavenly Father, o se tu devi ritornare al tuo Padre celeste oggi, and you say yes, pray with me. E tu dici oggi sì, prega con me, prega per me. I ask you to raise your hand right now. Io vorrei chiederti di alzare la tua mano. As a sign that you say yes, God come bless you. Un segno di arresa, un segno che dice sì, God io voglio fare you. Pace God con Dio. God bless you. Che Dio vi benedica, grazie. God bless you too. God grazie. Bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Many people here. God tante bless tante you. Persone. God bless you. See all your hands there. Io vedo ogni mano qui. And the Bible says that whosoever calls upon the name of the Lord shall be saved. Ora la Bibbia dice che chiunque invoca il nome del Signore sarà salvato. And I just want to ask one more time, was there one more person who said yes, me too? Was there one more person who said yes, me too? Voglio chiedere ancora una volta, c'è qualcun altro che vuole dire sì, sì, anche io voglio accettare Gesù. Please include me in that prayer. Includimi. Raise your hand. Nella tua preghiera. So I can see it. Allora alza la tua mano così che io possa vedere, pregare per te. Wonderful. God bless you. See your hand. Yes, see grazie. Your hand. Grazie. Why don't we just pray together? Perché non preghiamo? Say, Lord God. E di Signore Gesù. Let's pray this all. We can pray the whole church together. Tutti quanti possiamo pregare insieme, ripetere queste parole. Lord Jesus. Signore Gesù. I believe in you. Io credo in te. I believe you are the Son of God. Io credo che tu sei il Figlio di Dio. I believe that you died for my sins. Io credo che tu sei morto per i miei peccati. I believe that you conquered death. Io credo che tu hai vinto la morte. I believe you are alive today. Io credo che tu sei vivo oggi. I surrender my life to you. E io arrendo la mia vita a te. Here I am, Lord. Sono qui, Signore. My future is yours. Il mio futuro è tuo. Be my Lord and my Savior. Sii il mio Signore e il mio Salvatore. In Jesus' name. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Amen. Amen. Your pastor may want to save. There's some personal prayer that's going to be offered for you. Il pastore o chi per lui vi dirà quello che succede dopo. Pregheremo insieme, possiamo pregare insieme. Abbiamo un regalo per voi, una Bibbia. But let's just pray together for God's supernatural time. Ma preghiamo adesso insieme per il tempo supernaturale di Dio. If that's natural for you, why don't you just lift your hands for a moment? Se ti senti a tuo agio, perché non alzi entrambe le tue braccia? Father God, I just pray for this church. E Gesù, io ti prego per questa chiesa. I pray for this city. Io prego per questa città. I pray for this region. Io prego per questa regione. I pray for Italia. Prego per l'Italia. I pray, Father God, for every individual here. Prego per ogni persona qui. I thank you for the pastor and for the leaders of the church. Ti ringrazio per il pastore e per i leader di questa chiesa. And I pray, Father God. E io ti prego, Gesù. Release us. Che tu ci possa mandare. And let us see the fullness of time in our lives. E che tu possa far sì che noi possiamo vedere il tuo tempo super. Let us see your supernatural time in our lives. Facci vedere il tempo supernaturale che tu hai per noi. We want to walk in obedience. Noi vogliamo camminare in obbedienza. In faithfulness. In fedeltà. In prepared hearts. E vogliamo preparare i nostri cuori. In prayer. Vogliamo pregare. And we believe that you have a prophetic time. E sapere che tu hai un tempo profetico. Where you are releasing your plans and your purposes. Noi vogliamo vivere il tuo piano. Per noi. And somehow, Lord, e in un qualche modo, Signore, I believe that you have a special time for this church. Io credo che tu abbia un tempo specifico e speciale per questa you chiesa. Have a supernatural dimension. Che tu hai una dimensione supernaturale. Let it be so, oh God. E che questa possa essere visibile e tangibile. Because the church is prepared. Perché la chiesa è preparata e pronta. For a long time. Da tanto tempo. The things that used to take 10 years. Le cose che di solito avrebbero preso 10 anni. May just take a couple of years. Che possano prendere solo un paio di anni. Things that used to take a couple of years. Cose che di solito prendono un paio di anni per succedere. Maybe happening in a few months. Che possano succedere in qualche mese. Because we believe, Father God. Perché noi crediamo, Signore Gesù. You have times and seasons in your hands. Che tu hai il tempo e le stagioni nelle tue mani. Release us, oh God, we pray. Allora che possiamo vivere in esse. Into your supernatural time. Nel tuo tempo supernaturale. And everybody said. E tutti quanti insieme diciamo. Amen. Amen. Amen. Amen. God bless you.